la stanzetta d'affitto è trovata. Per momento va bene, siamo gente deborgata, non potremo salgare. Da domani comincia Carvalho, non c'è altro da fare. Finirà sto calendario e per cosa cambierà? Se moriti di volontà. Cuore mio, cuore mio, la speranza non costa niente. Quanta gente c'ha tanti soldi. Siamo nati da povera gente, è la nostra realtà. Ma le vie ce ne sono tante, tanti modi per scolar. Ora andiamo a gente c'ha tanti soldi e l'amore noi, e stiamo meglio noi, e non sbagliamo mai. Cuore mio, cuore mio, la la la la la la la, se potrebbe sapere meglio.